and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Oh, vi ricordiamo che questo programma è adatto ai bambini dagli 8 ai 70 anni, meglio se in presenza di un genitore o anche di un nonno. Ma cosa dici? Sì, anche un nonno, perché nelle case di oggi possono anche esserci nonni, genitori o nonni. Ma se a c'è parte nonno, che il nonno di uno di 70 anni come minimo è al Museo Egizio nella Sala delle Mummie. Senti Kappa, tu fai il sarcastico, no. Però a me qui arriva il regolamento da leggere, io lo leggo così com'è e non ci penso, vivo sereno, quindi lasciami stare. Vabbè, oggi parliamo di scuole sovraffollate. Così sovraffollate che prendono intere classi, tutti i bambini, e li spostano dall'edificio scolastico dentro capannoni malsani, pieni di amianto, pericolosi. Ma no, ma che esagerazione, come? Amianto. Amianto, Eternit, topi, pozzanghere radioattive, Drago, bocche di lupo, ma tagliole, ma campi minati. Questo è Baghdad quando sono andati via gli americani. No, è la scuola di oggi. Sei mai stato in una scuola ultimamente? No, nemmeno a Baghdad. No, però vabbè. Sei in questo asilo. Questo asilo rischia di diventare così se qualcuno non interviene. Ma sai perché succedono queste cose? Perché le classi sono sovraffollate? Perché la crescita zero è ormai un ricordo. Lo si capisce dal numero degli studenti. Nel 2009-2010 hanno frequentato la scuola primaria, che ricordiamolo è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto 6 anni entro il 31 dicembre, 2.578.650 bambini. 7.000 in più rispetto al 2008-2009. E 7.000. Cosa vuol dire? Che cresce il numero dei bambini. Esatto. Però cresce anche il numero degli insegnanti. E quindi come fa la ministra bambina Gelmini, che ha 200.000 precari da sistemare? Cosa se ne fa? Anche se lì bisogna vedere bisogna vedere chi ha ragione, a cosa credere, non si capisce. Come no? Ma perché non devi crederci a quello che dice il ministro bambina Gelmini? So, chiediamoglielo a lei. Vabbè, ministro bambina Gelmini, noi siamo un po' confusi sull'argomento precari, classi sovraffollate. A che cosa bisogna credere? Al libro bianco sulla scuola, scritto sotto l'egida dei ministri, non ha ancora imparato l'italiano. L'egida. C'è sempre questo libro bianco, dovremmo leggerlo prima o poi. Sì. Però la soluzione ce l'ho io per questo problema. Perché se ci sono, se ci sono più insegnanti e ci sono più bambini, perché non si fanno classi più piccole e così si fanno lavorare più insegnanti? Mi sembra proprio una soluzione. Si può. Ma come non si può? Non siamo mica in Germania. Ma cosa c'entra la Germania? Ma non adesso? Lo so, dicono tutti così: doppio turno alla tedesca, il 5%, lo sbarramento. Bisogna fare come in Germania. Questo è il festival delle frasi fatte. Bisogna fare come in Germania. La verità è che non bisogna più fare come in Germania. Non l'hai sentito il bambino ministro Tremonti? Facciamo come la Germania mi sembra realmente una roba da bambini. Hai sentito? Robe da bambini. Non è così che si risolvono i problemi. Si fa come in Germania, così vabbè, a caso. Quelli che sono senza lavoro dovevano pensarci prima. Prima di cosa? Ma che ne so, prima di studiare quello che hanno studiato. Ma cosa stai dicendo, Kappa? Ma guarda che gli insegnanti italiani sono degli eroi. Ah, ecco, lo sapevo. Cosa? Lo sapevo, tu stai sempre dalla parte del potere, con la certo. P maiuscola. Insegnanti italiani, proprio il potere con la P maiuscola. Tra insegnanti e bambini, io sto con i bambini. Io infatti qui sto bene all'asilo. Io lo sapevo. Non fosse per te che mi fai lavorare. Comunque la guerra, guarda che non è tra insegnanti e bambini. No. La guerra è tra gli insegnanti e il ministro bambina Gelmini. E gli insegnanti, seppur precari, seppur sottopagati, resistono da eroi. Lo dice anche il bambino Bersani. Vabbè, ma lui è di parte. Anzi, di partisan. Adesso vedi che fai scattare Tito. Maresciallo Tito, lasci parlare il compagno bambino Bersani. L'idea di una figura eroica, quelle di quelle insegnanti che nelle città degradate in tanti luoghi d'Italia vanno a inseguire il disagio sociale, a tener fermo il bambino, a veder che non vada via, mentre la Gelmini le rompe i coglioni. E adesso bambini, ricreazione, andiamo! Ricreazione. Nonna capa, ancora con sta storia della ricreazione. Dai, Drago, dai. L'allegro suono della campanella, l'allegra ricreazione. Vabbè, ricreazione per i bambini dell'asilo, solo per loro, perché per noi invece comincia il momento delle interviste al bambino Albertino. Ma sempre lui? Beh, io adoro la serialità, capa. Tutte queste interviste, poi le raccogliamo, le mettiamo in un bel CD e le vendiamo. Ah, no? Sì, buone, buone, questa idea è fantastica. I CD di musica non vendono più e per riprendersi il mercato sta aspettando il nostro fantastico CD con le nostre fantastiche interviste a un bambino psicolabile. Dai, Drago. Uè, cos'è che dite lì? No, stavamo parlando di bambini psicolabili. Ciao, bambino Alberto. Ok, no, allora non parlavate di me. No, Albertino, no. Però un po' sì, no, nel senso che, come vedi, qui siamo per la consueta intervista a Per Chiedo Asilo, il quotidiano di Radio 24 dedicato ai bambini, quindi dedicato a te. Ma non solo a te. Però anche a te. A te, ma come a tutti gli altri bambini. Sì, però anche a te. Va bene. Allora, Title tutor, dai. Allora, che palle sto tutor, però uno non può neanche... Maloso. Allora, torniamo al punto. Allora, di che cosa stavamo parlando? E che ne so? Io cercavo di fare la ricreazione e siete arrivati voi col microfono a rompere i marroni come al solito. Ma adesso cos'ha? No, il bambino Albertazzi qui ha nominato Alberto. Un politico. Alberto, vabbè, Tito sui politici è piuttosto sensibile, No, ma che politico ha nominato? Ha nominato un politico. Ma no, nessuno. Ma sì. Ho solo detto di non rompere i marroni. Ecco, uffa, sentito, dai, allora, avete capito tutti quanti, moderiamo i termini, ci sono parole che è meglio non pronunciare. E una è proprio quella che ha appena pronunciato il bambino Albertosi qui. Alberto! Vabbè, però il bambino Albertuccio ha ragione, Ma cosa? Lui vuole passare, cosa c'è? E basta con i soprannomi, Vabbè, lui perché è il portiere del Milan. Di Albertosi. Vedi. Lui vuol fare la ricreazione in santa pace e noi invece lo disturbiamo. No, dai, un aiuto che chiediamo. Ma perché piuttosto non lo seguiamo senza fargli domande e non impariamo a conoscerlo vedendo come si comporta con le insegnanti, con i suoi compagni? Insomma, è più istruttivo, no? Sì, ma non siamo la TV, come fai a seguire uno alla radio? Ma non lo so, News and Talk, no? News and Talk. Ma scusate, una curiosità. Ma voi siete pure pagati? Vabbè, adesso queste non sono cose che riguardano un bambino dell'asilo, quindi per piacere. No. Ma che interviste sono? Non lo perché so. A vedervi così, qualunque cifra venga spesa per voi due, è troppo. Vabbè, allora il tempo passa, l'intervista non parte, comincia a venirmi l'ansia, quelli della radio poi chiamano. Appunto, io sono qui a disposizione e voi continuate a impappinarvi, a dirvi le cose tra di voi. Ma cosa volete sapere? Ma non so, le cose fondamentali, tipo in che classe sei? Vabbè, sono nei piccoli. Ma come nei piccoli? Ma sembri bello cresciuto, parli, sai tutto. Vabbè, sono ripetente. Ma come ripetente? Eh sì, All'asilo. All'asilo, ma com'è? Si ripete? Hai già visto? Non lo so se si può, però io sono ripetente. Dovrei essere nei grandi, invece sono nei piccoli. Vabbè. Però devo dire che a me piace stare nei piccoli, perché essere il più grande della classe è bello, Più grande è uguale prepotenza. Ma come? Tracotanza. No, ma scusa, essere il più grande ti dà la responsabilità di insegnare qualcosa ai tuoi compagni. Altro che prepotenza e tracotanza, dai. Violenza psicologica. Ma cosa? Bullismo, ricatti, estorsioni. Insomma, di roba da fare ce n'è. Vabbè, io non so più cosa dire, capa. Mi pareva di averlo già detto fin dall'inizio che Albertino è il bambino sbagliato. No, ma cosa di? Non esistono i bambini sbagliati. Sì, vabbè, ma così. Guarda che è come nel free jazz. Ma cosa il free jazz? Non esistono noti sbagliati. Ecco, il tutor. Però scusa, ma capa, ma cosa c'entra il free jazz? Una cosa è il free jazz, un'altra è il bullismo, una cosa grave. New Yorkese. Comunque, se volete seguirmi, io adesso sto andando a terrorizzare un bambinetto appena arrivato. Ecco, c'è ancora il pannolino? Cronaca, cronaca. Così vado a spiegarle come va il mondo, no? Ah, e com'è che va il mondo? E va che devi capire da subito da che parte tira l'aria. Sì. Se no, tempo zero e sei già una vittima. Ma... E questa è la regola numero uno. E sei tu che spieghi queste cose ai bambini piccoli? Ma io glielo dimostro. Col allora, pannolino? No, io li frego tutto, no? Li frego dalla schiscetta a gadget elettronico. E poi gli spiego che io sono più forte fisicamente e quindi è giusto che io li freghi tutto. Capito? Poche parole, tanto esempio. E così almeno sti mocciosi crescono, no? Sono senza parole. L'importante è che non sei senza grano. Ma quale grano? Il grano, i soldi, no? Io sto diventando un personaggio della radio. E pretendete di non darmi neanche una lira? Ma dai, ma basta con sta storia. Dei soldi non sappiamo niente. Io poi devi parlare con quelli della radio. Ecco. Beh, allora cercate di capirlo in fretta, No. Se no io qui chiudo i rubinetti e addio intervista un giorno sì, un giorno no. Chiaro? Drago, cosa si fa adesso? Beh, cambiamo bambino. Questo è il bambino sbagliato. Ma basta! Non esistono i bambini sbagliati! Uè, voi due, bamba! Quindi sbagliato, c'è una cosa sola. Ed è la distribuzione del reddito. Quindi poche parole e fuori grano. Un programma di Capo e Drago. Torniamo domani. E mandate la vostra egida a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.